Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera siamo in collegamento telefonico con il sovrintendente del Carlo Felice di Genova, il maestro Giovanni Pacor, che ci parlerà di un po' di cose e anche del concorso del violino di Paganini, che è il celebre cannone che loro conservano a Genova con, tra l'altro, mille attenzioni e mille gelosie, e poi di tante altre cose. Innanzitutto buonasera maestro Pacor. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Allora, che succede in quella città che è così fantastica, così affascinante, che si chiama Genova? Lei dirige il Carlo Felice, che è uno dei teatri di riferimento, uno dei teatri importanti. Avete ancora una bella parte di programma, mi sembra. Abbiamo ancora in programma e dobbiamo completare la Carmen, abbiamo un balletto molto importante, Biancaneve e poi Barbiere nell'allestimento di Lele Luzzatti, quindi un bellissimo finale. Un bellissimo finale. Senta, si è già uscita qualche notizia, avete già parlato del concorso, mi pare che ci sarà il prossimo anno il concorso dedicato al nome di Paganini. Sì, diciamo che finalmente il concorso ritorna, perché il concorso era biennale, poi nel 2010... per via di tutto quello che è successo, crisi varie anche all'interno, poi nella città in particolare, insomma il concorso si è fermato e finalmente viene ripreso perché la ripresa del concorso è stata un attimo più lenta, e essendo un concorso internazionale, forse il più importante, sicuramente il più importante concorso per violino al mondo, e ha bisogno di un preavviso importante, di conseguenza non si poteva far prima. Comunque entro un anno, più o meno, entro 12 mesi dovrebbe succedere di nuovo il concorso Paganini. Ecco, mi dica una cosa, ci confidi una cosa. Questo concorso si svolgerà sostanzialmente l'anno venturo. Lei dice che è il più importante al mondo, ma verrà suonato anche il violino di Paganini, il cosiddetto cannone, o sarà soltanto privilegio di qualcuno? Ma guardi, questa è una domanda che bisogna fare a qualcun altro. Io sono un violinista, di conseguenza per me il concorso Paganini è sempre stato un simbolo dello strumento e Genova sicuramente, insomma, perché Paganini è il più importante rappresentante di quello che è la letteratura e l'esecuzione del violino. È una tradizione che il vincitore prende in mano il violino di Paganini e nell'antica sala del comune al Palazzo Doria Tursi praticamente suona un pochino, non suona tantissimo perché è un violino antico che si è voluto conservare così com'era. Soprattutto questo è una cosa da puntualizzare, ovvero un violino per funzionare ha bisogno di cambi di gomme e mettere a punto il carburatore a seconda della benzina che c'è nel 2000 rispetto a quella che c'era nel 1800. Per cui, voglio dire, ci sono molti violini anche più vecchi del violino di Paganini che funzionano benissimo e vengono usati normalmente da concertisti, persone di concerti. Non più tardi di qualche mese fa è venuto da noi Repin, che ha suonato con un violino simile, un Guarnieri, anche lui della stessa età del cannone, però un violino ovviamente funzionante perché ha i dettagli che servono a metterlo, diciamo, su strada e a posto. A Genova si preferisce non fare questo, si preferisce mantenere il violino intatto e di conseguenza anche per esempio la cordatura 440 Hz per il La, diciamo, non reggerebbe, non sarebbe sopportabile dal violino così com'è, perché in passato la cordatura, come si sa, era più bassa, era di meno 10 Hz più bassa, no? Quindi il peso delle corde sul ponticello, di conseguenza la tavola armonica e tutto quello che ne consegue, è un pericolo, tra virgolette, per questo strumento. Quindi si usava a suonare alcune note, alcune cose, alcuni brevi passaggi appunto in questa sala, quindi con un pianoforte, assolutamente non con l'orchestra, perché il violino non sarebbe stato in grado di perforare, diciamo, il suono di un'orchestra, ed era una cosa simbolica che faceva piacere ed era una tradizione molto importante di questo concorso. L'ultima volta non si è fatto perché il violino presenta problemi, e questa è una cosa che voglio dire, non la voglio dire criticamente perché non è mio compito, però il violino, un po' come tutti gli oggetti, può funzionare per degli anni, dei secoli, se viene tenuto in ordine di marcia, se viene aggiornato a seconda delle necessità. E questo violino, che è tra virgolette più giovane, però rimane sempre di più un pezzo museale. Certo. Ecco, maestro Pacor, dunque la stagione del Carlo Felice, lei ha detto appunto che chiuderà con un barbiere, quindi chiuderà, diciamo, nel migliore, con lo spirito allegro del barbiere. E poi riaprirete l'anno venturo, o quale sarà la prima della stagione 2014-2015? Guardi, sono cose che stiamo ancora delineando. La stagione avrà sicuramente un carattere sicuramente riprenderemo degli spettacoli, quelli di successo che abbiamo avuto negli ultimi anni, anche per motivi finanziari, diciamo, perché riprendere uno spettacolo è una cosa conveniente, dato che non siamo riusciti ad accontentare tutti, ne approfitteremo. Poi abbiamo in mente delle cose assolutamente da mettere in pista. Abbiamo in mente una Manon Lescaut, perché è un titolo che manca da parecchi anni a Genova. Vogliamo incrementare ancora di più il balletto, anzi, proprio in questo senso, insieme al concorso Paganini, una delle cose che vorremmo assolutamente puntualizzare e far diventare come di riferimento per la città di Genova, al di fuori di Genova, è proprio il riferimento che Genova sia la città del violino e la città del balletto, quello che è stata la tradizione del grande Festival di Nervi. Certo, sì, no, qualche anno fa, poi chiuso. Si è fermata per dei motivi assolutamente tecnici, logistici, cioè Nervi non riusciva più ad accogliere la folla enorme di automobili, di persone che andavano lì, e diventava sempre più complesso, e per un po' anche forse di pigrizia non si è voluto insistere a trovare una soluzione, insomma, ecco. Ma magari ci proviamo noi. Ecco, il concorso invece richiamerà gente da tutto il mondo, no? Ma il concorso, sa, il nome di Paganini è il riferimento, come Chopin per il pianoforte col suo concorso a Varsavia. Penso che fare i concorsi di pianoforte Chopin a Varsavia e Paganini a Genova sia il massimo che uno si possa aspettare, specialmente uno studente, un giovane che vuole instradare la propria carriera. Una presentazione di questo tipo deve essere alla base di una promessa molto importante. Cerchiamo di ripristinare questo, anche perché c'è un progetto a monte che si sta proponendo con la città, insieme alla città, che non ci sia solamente il concorso Paganini fino a se stesso, 15 giorni, si va, si suona tutti i giorni, si fa la finale e si saluta tutti, ma che diventino 15 giorni, magari anche un mese, che diventi veramente il Festival del Violino, che diventi la rassegna internazionale del violino a 360 gradi, quindi che ci sia il violino come concorso per esecuzione del violino, ma che ci sia anche un'estensione a essere un'esposizione, una mostra di liuteria, piuttosto che un incontro di tecnici e di altre cose, che ci sia anche addirittura il mercato. Stiamo parlando addirittura di spostare un'asta di Sotheby in quei giorni a Genova, ecco, non so, che diventi veramente la fiera internazionale del violino per quei giorni, che poi comprendono anche il festival. Un'asta di Sotheby's di violini, probabilmente. Sì, un'asta di Sotheby's di violini, certo, non di mobili, Luigi. O di libri, ecco, magari libri di musica sarebbero perfetti. No, vabbè, magari poi attaccheremo un po' di tutto, ma insomma era proprio perché le mostre di Sotheby's di violino sono regolari tra Londra e New York, quindi una si potrebbe spostare anche a Genova, insomma. Anche se oggi un violino come quello di Paganini, un Guarneri del 700, vale ormai milioni di euro, no? Sicuramente, sono oggetti che hanno dei valori impressionanti, sicuramente. Sì, ormai costano più di un'auto. Specialmente i guarnieri, perché sono rari, magari Stradivari ne ha fatti di più, quindi sono leggermente meno costosi proprio perché c'è una migliore offerta, a parte che i migliori Stradivari costano anche quelli, però sono strumenti ormai rarissimi, costosi e purtroppo funzionano sempre meglio dei nuovi, quindi non si può evitare. Del resto non dobbiamo mai dimenticare che anche la più cara delle automobili d'epoca, la Ferrari più esclusiva, non riesce a battere un Guarneri dei più esclusivi. Insomma, sono macchine molto meno veloci ma molto più costose di quelle che sono poi finite nell'immaginario collettivo. E vorremmo chiedere al sovrintendente Giovanni Pacor magari qualche ultima notizia, se ha una piccola cosa segreta da rivelarci. Abbiamo l'ultimo minuto. Il sovrintendente di Genova magari vuol fare una piccola lamentela per il funzionamento delle cose in Italia. No, la dico brevemente, me la offre su un piatto d'argento. Cioè, si parla tanto di come rimettere a posto l'economia, cioè andiamo a vedere dei paesi che presentano la millesima parte che c'è in Italia e vivono di turismo e di visite ai musei, cioè è un'industria che noi non sappiamo assolutamente valorizzare. Cioè, ci sono in Corea e l'Italia è il simbolo dell'opera, quando un coreano arriva in Italia pensa che si faccia l'opera in tutti gli angoli, invece noi siamo con l'acqua alla gola perché non abbiamo più una lira, quindi veramente non sappiamo assolutamente valorizzare questo. Cioè, potrebbe essere assolutamente è un motivo di attrazione, ma quando poi il turista arriva in Italia alla notte dei musei col Colosseo chiuso, poi l'hanno riaperto all'ultimo minuto, però siamo sempre in emergenza in quello che potrebbe essere assolutamente un'industria che potrebbe produrre tantissimo e forse anche di più di una fabbrica che magari anche inquina e dare anche tanto lavoro. Certo. Mi permetta di aggiungere. No, soprattutto dare lavoro vuol dire dare, che so io, possibilità, vuol dire dare chance ai giovani, che è quello che dovremmo sostanzialmente fare. Senta, grazie Giovanni Pacor per essere stato con noi, perché poi nelle altre due tranche della trasmissione avremo un liutaio e con lui parleremo del cannone specificamente, ma insomma per ora grazie a lei, che tra l'altro è stato disponibilissimo, e diciamo così ci troviamo al Carlo Felice. Grazie ascoltatori, saluti a tutti, un saluto a tutti. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Ora siamo passati dal Genova, dal sovrintendente Giovanni Pacor, siamo arrivati in collegamento telefonico a Cremona. Abbiamo dall'altra parte dell'apparecchio un liutaio che esercita in via Robolotti, è vicino al centro, dalla sua postazione, dal suo negozio, si vede il torrazzo. E ricordo il suo nome, Bruce Carlson, ricordo che è un americano, viene dal Michigan. Buonasera Carlson, buonasera. Buonasera, buonasera. Ecco, lei parla perfettamente l'italiano perché è diventato più italiano degli italiani, insomma. Diciamo che abito più in Italia che negli Stati Uniti, sono venuto qui nel 72. E ormai non riesce più a dimenticare questo paese, insomma, con tutti i guai che ha? Ma no, ormai è la mia casa, mi sento molto italiano anche. Senta, lei fa liutaio e volevamo chiedere a lei qualcosa del celebre cannone di Paganini, perché non si restaura completamente, perché viene conservato così, lei che cosa ci può dire? Allora, bisogna guardare un po' nel passato, perché è cominciato naturalmente quando Niccolò Paganini ha avuto questo strumento nel 1802. La storia, che non abbiamo tutta la documentazione, comunque la storia è che un impresario a Livorno regalò lo strumento a Paganini dicendo che nessun altro dovrebbe profanare le corde di questo violino che è il grande maestro Paganini. È rimasto così talmente colpito dal suo modo di suonare. Nel 1837, dopo l'illustre carriera che conosciamo tutti, lui nel testamento ha legato lo strumento alla città di Genova. Allora, quando nel 1840 morì, lo strumento passò a suo figlio Achille Paganini, e dopo un poco tempo una trattativa fra Achille Paganini e il Comune di Genova, nel 1851 il proprietario dello strumento passò ufficialmente a Genova per custodire lo strumento. Allora, lo strumento è importante prima di tutto per il fatto che era lo strumento prediletto di Paganini. Certo. È sempre stato suonato e lui affettuosamente lo chiamava il mio canone violino. Nel testamento diceva che lascio il strumento alla città di Genova che sia perpetuamente conservata. Allora, queste poche parole effettivamente danno anche un grosso peso a chi prende in carico di custodire questo strumento. Il bello è il fatto che lo strumento è stato relativamente poco suonato da quei tempi fino ai giorni nostri e allora si trova in una condizione molto meglio conservato di tanti altri strumenti che magari passavano da musicista in musicista che venivano suonati continuamente. Allora, lo stato di conservazione, uno. Numero due, il fatto che lo strumento ha una impostazione storico dai tempi di Paganini e anche per questo noi riteniamo che non dobbiamo modernizzare lo strumento completamente, ma comunque è anche un documento storico. Ecco, ma tutte le necessità che il violino ha, che so io, di essere mantenuto nel tempo, sono rispettate, no? Vengono lasciate così. Come si conserva un violino come quello di Paganini? Una delle cose che bisogna fare effettivamente per conservare cozza con l'utilizzo, perché naturalmente l'utilizzo implica un certo rischio e anche usura, danni accidentali, i viaggi, no? Che in alcuni casi sono successe delle cose tremende ai strumenti. Io lo so in particolare perché faccio restauratore e molto spesso sono io che devo mettere a posto strumenti che hanno subito qualche danno, qualche incidente. Allora, l'idea principale è la conservazione dello strumento, però non di renderlo necessariamente per forza muta per tutto il tempo. C'è molta pressione di utilizzare lo strumento, anzi tanti dicono che lo strumento perde il suono, che io non ci credo proprio, però non può essere utilizzato continuamente perché si logora. Certo, alcuni dicono che se non si suona lo strumento perde le sue qualità sonore, è questo che lei diceva di esatto. Non credere. Alcuni dicono lo strumento va fatto vivere, il legno uno strumento vivo, guai se non si suona. Lei invece ritiene che è bene suonarlo poco. Non è strettamente necessario, perché lo strumento, una volta che ha formato la sua voce, che di solito succede nell'arco di una di un carriera di un musicista, ad esempio in questo caso con Paganini, lo strumento può anche avere dei periodi anche molto lunghi di silenzio, di fermo, e ugualmente funzionare benissimo. Senta, caro Carlson, ecco, però la resa sonora del violino, il suo orecchio, diciamo, professionale, cosa dice? Devo dire, al telefono si fa fatica, però certo. In ogni caso ne ho sentito anche Maestro Cardi di persona molte volte e anche suonando il violino di Paganini. E comunque lo strumento è un ottimo strumento e capisco benissimo perché Paganini l'abbia scelto come il suo compagno di viaggio. Abbiamo detto che il violino di Paganini è un Guarneri del Gesù. Molti hanno in mente gli Stradivari, altri ricordano gli Amati o altri violini costruiti nelle tante situazioni italiane. Che differenza c'è? Che cosa possiamo dire molto semplicemente tra un Guarneri del Gesù e uno Stradivari, ad esempio, che sono violini che costano milioni di euro? Tutti e due sono verso la fine del periodo classico di liuteria cremonese, che è iniziato con Andrea Amati nel 500 e poi dopo verso il 1750, verso il 1740, allora morì Antonio Stradivari, Guarnero Gesù e Carlo Bergonzi, che erano i tre grandi liutai cremonesi, che hanno portato la liuteria cremonese a livelli straordinari mai duplicati. Questo tutto deve anche loro a quello che è preceduto, quella della famiglia Amati, però è una tradizione che è passato anche più di due secoli, e questa tradizione liutaria era riconosciuta anche in tutta Europa, anche all'epoca. Erano diventati veramente famosissimi. Poi dopo, a causa di cambiamenti di economie e anche concorrenze locali da altri liutai che cominciavano a costruire strumenti, il periodo d'oro, diciamo, della liuteria cremonese è andato in calo dopo il 1750, diciamo. Ecco, ma uno Stradivari va bene forse per certi pezzi, un Guarneri per un altro, o questo dipende poi da strumento a strumento? C'è una caratteristica o... Io tendo a consigliare ai musicisti di giudicare strumento per strumento, perché curiosamente o come hanno vissuto gli strumenti o come si sono sviluppati, gli strumenti possono essere, posso sentire un Stradivari che è essere ingannato che pensare che sto ascoltando un Guarneri e viceversa. Le differenze sono molto sottili, ma in generale i musicisti dicono che un Guarneri può essere un pochettino più maltrattato. Piace molto ai virtuosi che devono suonare davanti a ormai un'orchestra di 100 orchestrali, no? Sentirsi tranquillo che, come si dice, il pubblico sentirà tutta la loro interpretazione. Stradivari sono anche loro bellissimi strumenti. Molti parlano di una certa nobiltà di suono che non ha i Guarneri. Guarneri è più aggressivo, può essere. Certo. Però, come ho detto, sono stato smentito anche altre volte quando sento questi strumenti di persona. Ecco, senta Carlson, quello che le chiediamo è un piccolo sforzo ancora. Lei ha tra le mani sovente il Guarneri, il cannone di Paganini. E sì. Perché lei ovviamente è il suo medico, il medico di questo strumento, lei vede se c'è qualcosa che non funziona, ma questo strumento è suonato pochissimo. Anche chi vincerà il concorso pare che possa suonarlo solo un minuto o due, insomma, mi hanno detto. Forse è meglio che lo suonano solo uno o due minuti, perché poverini, quando finiscono il concorso sono sfiniti. hanno speso proprio tutto per arrivare in prima posizione, no? Infatti molto spesso avevo suggerito nel passato che forse un vero e proprio concerto o una registrazione, non so, la possibilità di suonare lo strumento dopo che è passato sei mesi, un periodo di tempo, in modo che potevano preparare un programma. Certo. Prova a immaginare, i musicisti a volte sono andati proprio in crisi perché dargli un altro strumento, non sono abituati a suonare, per quanto bene suona il cannone, è diverso del loro strumento. E certo. E allora si trovano sempre un po' in difficoltà, e poi dopo il rispetto per Paganini, il rispetto per il Guarneri del Gesù, l'immenso valore dello strumento, mette tutto questo insieme e a volte sono veramente in difficoltà. Carlson, abbiamo soltanto pochi secondi per salutarci, è stato un piacere ascoltarla. Grazie, è stato un grande piacere per me, saluto tutti gli ascoltatori e la ringrazio tanto. E noi salutiamo lei, liutaio del Michigan, liutaio di Cremona, liutaio di Paganini, liutaio del Cannone. Grazie per essere stato con noi, un cordiale saluto da Armando Torno e da... Bruce.